L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Prosegue in questa puntata la serie estiva dell'altro pianeta che abbiamo deciso di dedicare a documentari e docufilm a tema ambientale. Oggi è la volta di Anni Verdi, la storia di tre anziani che invece di godersi la pensione si trasformano in giustizieri dell'ambiente, l'ambiente in cui vivono, la provincia di Frosinone. È un film che racconta una storia vera, che ha come protagonisti i reali personaggi e che è stato girato da Chiara Bellini. Andiamo Lina, andiamo che si parte, andiamo, forza. Ormai sono 4 anni che io, Vincenzo e Mimmo facciamo i guardiani della terra. C'è chi va in pensione, chi va in vacanza. Invece noi abbiamo deciso di fare i guardiani della terra. Questo è un ideale mio, però io ho una famiglia, un marito, tanti problemi pure di salute, mica perché sono più una giornotella. Io mi sento di farcela fin quanto ce la fa a respirare. Certo, ma pure io non mi tiro indietro, però è pur vero che è difficile, insomma, non è una cosa facile questa. Chiara Bellini, Gli anni verdi. Ti chiedo necessariamente di riassumere un pochino per gli ascoltatori quella che è la storia, che è una storia vera, è una storia molto godibile, però vabbè, insomma, raccontiamola. Allora, Gli anni verdi è un documentario, non è un reportage, è un film documentario che racconta la storia di tre personaggi, tre nonnini, una nonnina e due accompagnatori, che invece di godersi la pensione e i nipoti hanno deciso di abbracciare la battaglia ambientale. Perché innanzitutto vivono in un'area particolarmente problematica, che è la Valle del Sacco, che è un sito di interesse nazionale, il che significa una delle aree più inquinate d'Italia. E siamo in provincia di Frosinone? Sì, siamo in provincia di Frosinone, il Sacco è un fiume che corre per quasi 87 chilometri tra Colleferro, diciamo la parte più problematica, tra Colleferro, che è tra la provincia di Roma e Frosinone. E questo fiume è contaminato da una molecola, il beta-esaclorocicloesano, che è un materiale di risulta della produzione del DDT, che è stata sversata nel fiume. Il fiume l'ha tirata su nei campi, quindi gli animali hanno mangiato l'erba contaminata, quindi la molecola è entrata nella catena alimentare. Come succede col PFAS nel Veneto adesso? Esatto. Cioè si è scoperto adesso, in realtà succede da anni. Esatto. E ma lì c'è ancora produzione o è finita? No, la produzione è finita e lì c'era la Caffaro, che poi è diventata SNIA, hanno prodotto armi chimiche, armi di tutti i generi, poi è passata alla chimica generale e poi insomma è stata chiusa. Ora ci sono c'è sempre l'industria bellica, c'è sempre quella, non se ne va. E poi ci sono inceneritori, discariche ufficiali, discariche abusive, fabbriche che comunque immettono fumi e scaricano, insomma è un'area molto molto complessa. Oltre a vivere insomma un quotidiano non particolarmente allegro, hanno subito un incidente molto, molto grave. A poche centinaia di metri dalle loro case c'è una fabbrica, la Marangoni, che produceva pneumatici e li bruciava. E una mattina loro si sono svegliati tutti neri, in faccia, le lenzuola, fuori gli animali nell'aia, perché queste sono contadini, quindi hanno animali, hanno coltivazioni piccole, però l'orto di cui mangiano e magari vendevano anche, no, delle cose, si sono trovati centimetri di carbon black ovunque. E a quel punto si sono accorti di non essere protetti, di non essere, cioè, si sono chiesti com'è possibile che possa succedere una cosa del genere e nessuno viene a salvarci, nessuno viene ad aiutarci. Dopo 10 giorni sono andati a prendere dei campioni che non sono stati neanche analizzati. c'è tuttora un processo in corso, e da quel momento hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di mettersi loro a controllare il territorio, a vedere se c'erano altre emergenze a cui far fronte, quindi a fare denunce, accessi agli atti, chiamare le istituzioni, venite a vedere che c'è il tubo che sversa, venite a vedere la discarica, e sono diventati, come loro si dichiarano, i cavalieri della terra, di quella terra. Sono anche supportati da un'associazione importante che lavora su tutta la Valle del Sacco, che si chiama Retuvasa. Sono supportati da un'associazione di ecogiuristi molto, molto bravi, che insomma stanno seguendo molte cause ambientali, e questa è un po' la loro vita, questa è la storia del film. Non potevo non raccontare la loro storia. Caro brigadiere, quanta ragione ha lei nel dire a Mimmo e Vincenzo che i prelievi, anche se li facciamo analizzare noi, non contano niente. Chi siamo noi? Siamo gente comune, liberi cittadini che debbono prima di tutto rispettare le leggi, però abbiamo anche dei diritti. Da questo tubo sono anni che esce acqua sporca, ma non riescono a capire da dove viene, quale fabbrica scarica. Non sembra anche a lei che forse chi è preposto a farlo non ha alcun interesse a trovarlo? Però nonostante tutto loro restano e restano contadini anche, che quindi sono noi più vicini ai danni possibili su questa terra. Come te lo spieghi? Ve lo spiego perché quella è la loro terra. Quella è la loro terra, mi hanno detto un sacco di volte, io non me ne voglio andare perché questa è la mia terra, io voglio stare qui e voglio che facciano qualcosa per la mia terra. E poi è chiaro che anche a me la prima cosa che è venuta in mente è: ma andate via tutti. Proprio la loro ormai è una missione. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, purtroppo, che di Valli del Sacco in Italia ce ne sono tante. Cioè i siti di interesse nazionale sono... adesso 40, perché c'è stato un declassamento del ministro Clini, prima erano 57, poi il decreto Clini ne ha declassati un tot, dicendo che erano già partite le bonifiche, oppure insomma non c'era bisogno che fossero di competenza ministeriale, li lasciamo alle regioni, lascio immaginare il putiferio che si è creato. E le aree inquinate in Italia sono tante, quindi dici, se me ne vado, dove vado? Cioè poi non è così automatico, no? Cioè, fai, vendo la casa, vendo l'attività, come fai? Non è così facile, no? Non è così. E poi c'è anche un attaccamento forte alla terra, che io ho notato non solo lì, ma anche in tutti questi siti che purtroppo conosco, li conosco quasi tutti, questi siti di interesse nazionale, tutti vogliono che venga riqualificata la loro terra. Le radici, no? In Italia noi lo sentiamo tanto, questo attaccamento. Sì, assolutamente, gli italiani sono local, poco globali in questo. Però, adesso tu dici, conosci tutti, un po' tutti i siti, e purtroppo non è che si fa molto per riqualificarli, non mi pare ci siano grandi iniziative, si lascia al tempo il compito di risolvere le cose. Sì, purtroppo sì, perché i siti di interesse nazionale vengono classificati tali negli anni 90, quindi se facciamo il conto degli anni che sono passati da quando si è detto che l'area X deve essere bonificata e poi la riqualificazione arriva dopo, quindi prima c'è la bonifica, non lo so, l'1%. Questo nonostante l'Italia negli ultimi anni si venda un po' come il paese dell'agricoltura, del buon cibo, del buon vivere, del buon tutto, quindi c'è questa grandissima schizofrenia, diciamo. Sì, un po' schizofrenia, un po' credo che stiamo tornando a dei valori che fanno parte della nostra tradizione, nel senso che l'Italia era una nazione a vocazione agricola, poi negli anni soprattutto del dopoguerra è stata buttata in bocca al boom economico, il progresso, l'industria, quindi tutti lasciano i campi, scappano in fabbrica, e queste fabbriche hanno lasciato dei bubboni disumani, inquinanti, no? E quindi adesso che c'è crisi economica, quindi le fabbriche chiudono e gli operai si trovano sbattuti fuori, insomma, forse tornare alla terra, tornare a quei valori, a quelle tradizioni che sono nel nostro sangue, forse conviene, e soprattutto poi si sta valorizzando l'agricoltura biologica, il biodinamico, quindi non solo il ritorno alla terra, ma il ritorno ad una terra trattata bene, finalmente, no? Noi Adamo abbiamo dimenticato di custodire i nostri orti, i campi di grano, i fiumi, i laghi, il mare, i bambini, i vecchi, gli animali. C'è anche qualche Abel in questo mondo, ma quanti Caino. Caino nelle leggi poco chiare, Caino industriale che sfrutta operai, Caino enti preposti al controllo di tutto ciò che falsifica analisi. Caino sono tutti quelli che chiudono gli occhi di fronte all'evidenza dei fatti e non fanno niente, che archiviano denunce vere di poveracci che credono nelle istituzioni, finché non ci sbattono il muso. È tutto per questa settimana, ci ritroviamo la prossima alla stessa ora con un altro film ambientale. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.